1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali. Dunque, vi ricordo gli ospiti di oggi. Avremo ospite Giorgia Meloni, ex ministro, fa parte di Fratelli d'Italia, questa alle 8:15, per parlare dell'attualità politica, anche se l'attualità politica è stata ovviamente per un giorno totalmente oscurata, almeno vedremo dai giornali, dalla notizia più importante, quella delle dimissioni, come sapete, del Papa annunciate, e parleremo di questa alle 8:30. Avremo con noi la professoressa Lucetta Scaraffia, che è anche editorialista dell'Osservatore Romano, e Marco Lillo del Fatto Quotidiano, che un anno fa anticipò una sorta di complotto che in qualche modo oggi, scrive Il Fatto, potrebbe essere stata la premessa di quello che è avvenuto proprio ieri. Questi gli ospiti, andiamo a leggere dunque i giornali, come detto quasi totalmente declinati, almeno nelle aperture certamente, sulla vicenda del Santo Padre. In questo martedì 12 febbraio, intanto uno sguardo ai titoli, la carrellata appunto consueta è tutta declinata, le notizie dal Vaticano. Lascia Papa Benedetto XVI, è per il bene della Chiesa, così apre Il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, non ho più le forze, perdonatemi. Repubblica, il Papa lascia, addio storico. Per La Stampa, l'addio del Papa deciso un anno fa. Il Fatto Quotidiano, Benedetto coraggio, il Papa si dimette per salvare la Chiesa. Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, l'umiltà di Pietro. Libero, gli intrighi vaticani fanno dimettere il Papa. L'unità, la rivoluzione di Benedetto. Il Giornale invece mette una grande foto di Papa Benedetto XVI, il titolo è Il Papa scende dalla croce, e poi a caratteri cubitali, Amen. Questo è il titolo di apertura. Lo strappo invece, questo è il titolo del Secolo XIX, c'è da dire che Il Foglio oggi di Giuliano Ferrara cambia proprio la testata e diventa il soglio pontificio, il prevedibile addio del professor Ratzinger, questo è il titolo di prima pagina. Il Manifesto invece mette una foto del Papa di spalle, stasera esco. Papa Shock invece è il titolo del Messaggero in prima pagina. Intanto sui giornali non troverete la notizia, che però è una notizia che, come detto, è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa. Vale a dire l'arresto dell'amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi, che è stato arrestato per ordine del magistrato del giudice di Bustarsizio. L'accusa è corruzione internazionale per tangenti che sarebbero state pagate per la vendita di 12 elicotteri al governo indiano. Arresti domiciliari anche per Bruno Spagnolini, amministratore delegato di Augusta Westland, e altri due ordini di cattura per i mediatori che avrebbero portato le mazzette che avrebbero consentito appunto di creare fondi neri e per questo le tangenti. Dunque, questa è una notizia davvero che è arrivata pochi minuti fa, come abbiamo dato anche in GR24, e vi terremo aggiornati. Ovviamente questa non la troverete sui giornali, perché è una notizia di questa mattina, una notizia clamorosa. Ripeto, l'arresto dell'amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi e di altri vertici della società. Come dire, visto in questa apertura di pochi minuti prima della pubblicità, voglio però alleggerire in qualche modo, anche se poi si può dire alleggerire, ma non so, inizia Sanremo e qua più che il Festival della Canzone si sta tramutando preventivamente, manco hanno iniziato, in una serie di polemiche davvero da non finire, tanto che leggete il Corriere della Sera con Paolo Conti a pagina 23, c'è emergenza festival, arriva il direttore generale della RAI, Gubitosi, che racconta il Corriere, ha lasciato ieri notte Roma, da stamattina sarà a Sanremo, fonti ufficiali della RAI normalizzano la sua apparizione, ricordando l'approdo di altri capi di Viale Mazzini al Festival della Canzone, ma stavolta è tutto diverso. Primo, Gubitosi è un convinto antipresenzialista, teorico della suddivisione dei ruoli aziendali, dunque non si sarebbe mosso se non ci fosse di mezzo un'autentica emergenza. Nessuna censura, ma l'obiettivo è che il festival mantenga equilibrio e equidistanza politica. Secondo, questo Sanremo passerà alla storia del costume nazionale come l'edizione più a rischio, ma il festival ha preceduto di una settimana le elezioni politiche. e mai con la par condicio che si è insinuata tra le canzoni in gara agli ospiti delle serate. In più, da ieri a mezzogiorno sulla via di Sanremo è caduto un altro macigno: le dimissioni di Benedetto XVI, l'imminenza del conclave e dunque il rischio che anche Maurizio Crozza, e infatti l'articolo sotto è questo, l'ultima tentazione di Crozza, imitare il cavaliere vestito di bianco, potrebbe addirittura comparire in una delle sue imitazioni mettendo insieme Papa Ratzinger e Berlusconi. Insomma, c'è tanto allarme a Sanremo, tanto che ieri Berlusconi ha tuonato, ha sparato contro Sanremo: non vogliamo che si trasformi in una festa dell'unità, altrimenti il 50% degli italiani non pagheranno il canone della RAI. Ha risposto, ha replicato Fabio Fazio: lo paghi entro il 28 di febbraio, altrimenti scatta la sovrattassa. Il Secolo XIX, quotidiano ovviamente che segue anche con molta attenzione, con più attenzione, forse anche con maggiori notizie, visto che a Sanremo si svolge il Festival della Canzone. In prima pagina, shock al Festival, sfida Crozza, la politica va sul palco. Pare che oggi nella prima serata, ma è tutto un po' blindato, tutto un po' segreto, tutto un po' misterioso, Crozza potrebbe fare per par condicio Berlusconi, Bersani e Monti stasera all'Ariston, ma il comico non farà sconti a nessuno ed è giallo sul Papa. Ecco, farà addirittura battute sul Papa. E vabbè, c'è questa attesa preventiva. Di solito le polemiche ci sono dopo la prima serata, questa volta, ma d'altronde siamo in campagna elettorale. Ora si può dire anche ci si è messa questa notizia delle dimissioni annunciate del Papa, e quindi è un Sanremo davvero dove si rischiano le polemiche ancor prima di iniziare. Intanto, a proposito di Rai, vi do questa notizia che ho trovato su Italia Oggi a pagina 11. La Rai compra oro per 30 milioni di euro. E Stefano Sansonetti racconta, pagina 11, a caccia di circa 42.000 gettoni, i famosi gettoni d'oro, no? Per i giochi a premio. Anche in tempo di spending review, scrive Sansonetti, manovre, lacrime e sangue, ritenute indispensabili per far quadrare i conti, Mamma Rai non rinuncia ai tradizionali gettoni d'oro per i suoi giochi a premio, al punto che l'azienda pubblica, sotto la guida di Anna Maria Tarantola e del direttore generale Gubitosi, è disposta a spendere fino a 30 milioni di euro per non farsi mancare la preziosa merce. Questo è il senso di una procedura di gara volta all'individuazione dell'azienda che dovrà occuparsi della fornitura dei gettoni d'oro, fino a 42.100 gettoni d'oro per un valore di 30 milioni di euro. Il via, scrive Italia Oggi, è uno degli appalti più costosi della RAI. C'è tempo solo per questa? Prima della pubblicità? Sono sempre sul Secolo XIX in prima pagina, secolo che continua da giorni a denunciare gli sprechi delle regioni, in particolare della regione Liguria. Quest'ultima è stata trovata delle spese pazze in regione, quindi maggior ragione devo dirvi mani ben salde sul volante, cari ascoltatori. PD e Lega, viaggi di lavoro pagati due volte con i vostri soldi. In prima pagina il nuovo capitolo delle spese pazze in regione. Partito Democratico, Federazione della Sinistra e Lega Nord aprono i libri contabili del 2012, mostrano gli scontrini. Si tratta di spese per trasporti, parcheggi, notti in albergo, viaggi. E si scopre il doppio rimborso, perché ogni gruppo regionale nel suo bilancio infila praticamente qualsiasi cosa abbia un collegamento, ancorché tenue, con la politica, ma quasi tutti i consiglieri ricevono già il rimborso spese forfettario mensile legato alla partecipazione alle riunioni, quindi una voce integrante dello stipendio in base alla distanza tra la residenza e Genova, ed è una diaria pure esentasse. Nonostante ciò, scrive il Secolo, se vanno a una riunione piazzano pure lo scontrino, il parcheggio, l'albergo, e nonostante tutto sia già previsto dallo stipendio. Eccolo qui, le spese pazze in regione, in questo caso di PD e Lega in Liguria, viaggi di lavoro pagati due volte. Con quali soldi? I vostri, come sempre. Andiamo alla pubblicità del meteo e poi rientriamo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui allora alle 7:35 minuti, pronti alla prosecuzione della lettura dei giornali. Prima però vi vogliamo dare ancora la notizia che non trovate sui giornali, perché è una notizia di pochi minuti fa, di questa mattina, che sta seguendo Anna Marino e che riguarda Finmeccanica. Anna è con noi in studio. Anna, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, Alessandro, confermata l'ipotesi di accusa, come abbiamo anticipato, di corruzione internazionale. Per questo in carcere il presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi, e è stata decapitata appunto la società pubblica di difesa e spazio. L'ordinanza è del GIP di Busto Arsizio. L'inchiesta riguarda presunte tangenti sulla vendita di 12 elicotteri al governo indiano. Arresti domiciliari per Spagnoli, amministratore delegato di Augusta Westland, decine di perquisizioni in corso. E domiciliari, appunto, dicevamo, è stata appunto l'altra ordinanza che è stata emessa dal GIP di Busto Arsizio. Ricordiamo che l'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Napoli ed era stata trasferita a Busto Arsizio per ordine della Corte di Cassazione, cui si era rivolto proprio Orsi, sollevando una questione di competenza. Altri aggiornamenti in seguito. Grazie. Grazie Anna Marino, ovviamente sì, nel giornale radio delle 8 tutti gli altri dettagli. Allora, che dire, qua bisogna destreggiarsi tra la marea di articoli dedicati alla vicenda di Benedetto XVI, del Papa, le dimissioni annunciate per il 28 febbraio, un evento davvero epocale, storico. È vero, ci sono stati altri papi in passato che hanno lasciato il soglio pontificio, ma chiaramente non succedeva da secoli, e questa rinuncia di Benedetto XVI è una rinuncia che ha conquistato anche le prime pagine di tutti i giornali italiani, anche di gran parte dei giornali del mondo. Benedetto XVI lascia, non ho più le forze, questo è il titolo dell'articolo che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 3, e racconta un po' il resoconto di questa giornata davvero di portata storica. Come dire, vi segnalo qualche articolo tra i tantissimi che troverete sulle prime pagine dei giornali. Il primo che vi segnalo è un commento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, che trovate in prima pagina sul Sole 24 Ore. Il titolo è «La coscienza del dovere e la fragilità umana». Scrive Forte con profonda emozione: «Ho appreso la notizia della rinuncia di Papa Benedetto XVI al suo servizio di vescovo a Roma. Avevo avuto la gioia di parlargli giovedì scorso al termine dell'udienza concessa ai membri del Pontificio Consiglio della Cultura riuniti in sessione plenaria. Come sempre era stato squisito, lucidissimo nella memoria, luminoso nell'intelligenza, nel pur breve scambio di parole che avevo avuto con lui. Eppure non mi aveva sorpreso ascoltare il commento preoccupato di qualcuno dei presenti, cardinali e vescovi di varie parti del mondo, colpito dall'impressione di fragilità fisica che il Papa ci aveva dato. Sta proprio in questa paradossale combinazione la chiave di lettura della rinuncia annunciata. Da una parte la coscienza limpida dei propri doveri, delle responsabilità, delle sfide poderose che la Chiesa deve affrontare in questo mondo, dall'altra la percezione di una debolezza di forze che appariva chiaramente impari ai pesi da portare». E dunque questo senso del dovere, questa mancanza di forze, è ciò che ha colpito l'arcivescovo Bruno Forte. Tra l'altro il discorso in latino viene riportato da tutti i maggiori quotidiani, anche con la traduzione in italiano, con le parole del pontefice. Interessante anche il racconto di questa portata storica dell'intervento del Papa nell'articolo di Aldo Cazzullo, che trovate a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. In questo articolo Cazzullo racconta proprio l'annuncio con voce fioca, ma la volontà fermissima: chiedo perdono per tutti i miei difetti, dal 28 febbraio la sede di San Pietro sarà vacante. E da qui il racconto di Cazzullo dei cardinali attoniti. Lo sgomento si disegna sui volti dell'elemosiniere Guido Pozzo, del reggente della prefettura della Casa Pontificia Leonardo Sapienza, Bertone, segretario di Stato, e Sodano, decano del Sacro Collegio, hanno in mano il testo che Ratzinger ha scritto di proprio pugno e seguono le parole una per una. Sono tra i pochissimi che già sanno: il pontefice sta per dimettersi. Il momento di terrore che di solito accompagna la morte, la velazio del volto del pontefice, ora vissuto in forme nuove. A differenza di Wojtyła, scrive Cazzullo, il suo successore non se la sente di affrontare una morte pubblica. Non accadeva dai sei secoli, dai tempi di Gregorio XII, ma il precedente più noto è Celestino V, il Papa di Dante. Anche lui diede l'annuncio in un concistoro leggendo un testo scritto in latino, ed era il 13 dicembre del 1294. Ovviamente molti giornali fanno notare come in realtà la notizia si era già sparsa sotto forma di scoop, di annunci, di articoli già circa un anno fa. Per esempio oggi il Fatto Quotidiano con Marco Lillo torna in un articolo a firma che trovate a pagina 3 dal titolo Vaticano era già tutto scritto, torna su quel complotto di morte che il Fatto Quotidiano annunciò un anno fa. Forse ricordate, il giornale annunciò il Mord Complot, questo complotto di morte era il 12 gennaio 2012 quando Joseph Ratzinger, Papa, legge quella parola in neretto su un foglio consegnatogli dal cardinale Dario Castrillon Hoyos. I suoi occhi si accendono di ironia, le labbra si increspano in un sorriso, Benedetto XVI è stupito che qualcuno abbia spifferato la sua segreta intenzione di lasciare anzitempo il soglio pontificio, ma è ancora più divertito dall'incapacità litigiosa dei suoi cardinali. Ecco, il Fatto la ricostruisce così, torna un anno fa quando il cardinale colombiano Hoyos mise questo appunto in mano al Papa Ratzinger, nel quale appunto si leggeva che il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, profetizzava una sorta di morte, di complotto a morte nei confronti del Papa entro i successivi 12 mesi. Racconta oggi il Fatto che quando il Papa lesse quell'appunto, sorrise. Non riuscì a trattenere il sorriso e di fronte allo stupore del cardinale che glielo consegnava, perché in realtà quel complotto di morte sarebbe stata una traduzione erronea invece dei fatti accaduti veramente, vale a dire nessuno voleva uccidere il Papa, ma a fornire l'interpretazione autentica era il Papa. Non sarebbe stato in pericolo di vita, ma in qualche modo quell'appunto anticipava con una traduzione sbagliata il fatto che il Papa avrebbe voluto dimettersi un anno dopo, proprio come è successo con l'annuncio di ieri. Sta di fatto che anche Libero scrive, Antonio Socci titolò in un articolo circa un anno fa l'intenzione del Papa di dimettersi, e così anche Giuliano Ferrara, che oggi torna su Il Foglio, che per la verità oggi cambia testata e la testata non è Il Foglio ma Il Soglio. Giuliano Ferrara torna su un articolo di qualche mese fa nel quale parlava della possibilità appunto di dimettersi da parte del Papa. Anticipare una notizia, scrive Ferrara, di portata millenaria come le dimissioni del Papa è un buon servizio reso all'informazione. Ci è capitato il 10 marzo dell'anno scorso di scrivere e pubblicare precisamente questa anticipazione e ripubblichiamo senza variazioni, con amorevole premura verso quel grande vecchio, la pagina su Ratzinger che lascia il pontificato. Avremmo potuto scriverla ieri a dimissioni annunciate, perché non era un pettegolezzo monstro, non era una delle tante vociferazioni maligne che costellano da sempre la vita minore delle sottocurie vaticane e dei topi che in quel formaggio pasteggiano, non era una notizia riservata. La fonte era Benedetto XVI in persona. In un passaggio della sua limpida intervista al giornalista della Süddeutsche Zeitung, Peter Sewald, nel quale era detto che sotto certe condizioni di inadeguatezza della sua condizione fisica, psichica o anche solo spirituale, inadeguatezza a reggere il grande peso del governo della barca di Pietro, la coscienza libera del Papa poteva, in certi casi doveva, suggerirgli di abbandonare il campo nella dignità, nella responsabilità e nella consapevolezza. Inizia così dunque l'articolo di Giuliano Ferrara, che dice non era poi un mistero, ma in realtà leggendo quello che lo stesso Papa aveva detto era un qualcosa di prevedibile. C'è l'intervista a padre Georg Ratzinger, altri non è che il fratello di Ratzinger, che dice a Repubblica ad Andrea Tarquini: da mesi sapevo dei dubbi di mio fratello. Trovate l'intervista a pagina 4. C'è anche l'intervista al teologo di origine svizzera Hans Küng sul Messaggero, una decisione quasi rivoluzionaria. Prima parla a fatica, lo ha cercato tutto il mondo, e quando viene raggiunto dal Messaggero dice Küng: ho già detto tutta l'agenzia di stampa, ma dopo un attimo di esitazione risponde a qualche domanda. No, non provo senso di trionfo, addirittura di soddisfazione tardiva, perché dovrei? La decisione di Benedetto XVI merita grande rispetto, è legittima, comprensibile e anche coraggiosa. Cioè a dire che Hans Küng è un amico d'infanzia di Josef Ratzinger, ma poi negli anni diciamo, le strade si sono un po' divise, anche perché Hans Küng è stato in qualche modo sospeso per le sue critiche alle rigide gerarchie del Vaticano, e quindi hanno fatto due vite parallele che a un certo punto però si sono molto scontrate con vecchie polemiche. Ognuno ha i propri ricordi. Gianluigi Nuzzi, che ha scritto anche un libro sui cosiddetti Vati Leaks, i documenti usciti dal Vaticano, ricordate quelli che portarono anche all'arresto del cosiddetto Corvo, il maggiordomo del Papa Paolo Gabriele. Gianluigi Nuzzi oggi sul quotidiano Libero racconta di un incontro che ebbe con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia pochi giorni dopo, l'indomani dell'incontro dello stesso Pisapia con Papa Ratzinger. E oggi svela Nuzzi: beh, posso dire quello che mi disse il sindaco di Milano, e cioè di aver visto negli occhi di Papa Ratzinger occhi buoni e pieni di amore, anche che cosa? La paura. È un uomo che ha paura. Così Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, aveva confidato a Gianluigi Nuzzi. Si vede che quest'uomo ha con sé la paura. E racconta Nuzzi: Pisapia ha visto decine di uomini dietro le sbarre, sa conoscere, sa riconoscere le sensazioni, le paure, anche da uno sguardo negli occhi. Ecco, si chiede oggi Gianluigi Nuzzi di che cosa il Papa aveva paura. Non parla invece Michel Piccoli, che ha interpretato il Papa in Habemus Papam di Moretti, viene anche raggiunto dalla stampa e si infuria: nessun commento, trovo anche indecente che mi venga chiesto, io non sono il Papa ma solo un attore che lo ha interpretato. Parla invece Nanni Moretti e dice: beh, che devo dire, anche in un'intervista a Repubblica evidentemente avevo previsto tutto. In ogni caso, come vedete, la notizia nettamente prevalenza ha oscurato la campagna elettorale per un giorno. So che molti di voi diranno: beh, questo è un bene. Ma la campagna elettorale torna tra poco, dopo le informazioni sul traffico, perché è la seconda altra notizia che trovate sui giornali. Allora, la campagna elettorale italiana la trovate a cominciare da pagina 17, 18, 20 dei giornali, no, dei giornali generalisti, perché appunto la notizia del Papa ha oscurato, ha messo in secondo piano questo. Che c'è da dire? Berlusconi ha detto che ci importa dello spread, Bersani ha incalzato Monti dicendo scelga, ieri Monti ha tenuto un profilo un po' più basso, ci sono le polemiche del giorno dopo sulla battuta con allusioni sessuali di Berlusconi alla dipendente di un'azienda, lei quante volte viene, eccetera. Questa signora che ha avuto un crollo emotivo, raccontano i giornali, dopo che tutta Italia l'ha cercata. Ero emozionata, non mi sono sentita offesa, dice qualche parola il Corriere della Sera. Perché non ho reagito? Perché anziché stare al gioco non gli ha intimato almeno di smetterla? Queste sono le accuse. Io ho pensato che mi volesse mettere a mio agio, l'ho vissuta così, ero emozionata e contenta, l'ho trovata una cosa divertente, anzi mi sono sentita onorata di avere il contratto di vendita firmato da Berlusconi, lo incornicio e lo metto in ufficio. Angela Bruno, milanese, 30 anni, sposata con figli, alla cronaca di questa campagna elettorale passerà non come avrebbe voluto e sperato, cioè come una delle migliori venditrici di Green Power, azienda di impianti fotovoltaici con boom di crescita e espansione, ma come la giovane signora alla quale l'ex premier si è rivolta con sorrisi e volgarità, chiedendole se viene a costo zero, se viene quante volte, una volta, e poi facendola girare le do il numero di telefono. Sono polemiche su questo, c'è Michele Serra che fa la maca su questo, c'è il tema del voto disgiunto. Con attenzione Monti, che fa un'apertura in Lombardia dicendo: il nostro candidato Albertini, ma siamo non un partito ma un movimento che nasce all'insegna della tolleranza, e anche i nostri candidati sono liberi di votare chi credono, e quindi fanno in qualche modo un'apertura. Interessante invece sulla stampa un articolo a firma Maurizio Molinari, è un articolo nel quale La stampa dice: siamo entrati in possesso grazie al Freedom of Information Act, cioè la possibilità di consultare i documenti negli archivi americani, di una nota che l'ex ambasciatore americano Ronald Spogli mandò a Condoleezza Rice, che allora era il segretario di Stato del presidente Bush, il 4 aprile 2008, un lungo telegramma dell'incontro tra l'ambasciatore e Beppe Grillo. Grillo stregò l'ambasciatore americano, è un interlocutore politico credibile. Questo è il documento esclusivo proposto dalla stampa quando il 4 aprile 2008 Spogli andò a pranzo con Beppe Grillo. Il tema era nessuna speranza per l'Italia, l'ossessione della corruzione, e definisce Spogli, il leader del Movimento 5 Stelle, un interlocutore credibile nella comprensione del sistema politico italiano grazie al fatto di essere l'unico per denuncia della corruzione della vita pubblica, ricorso al web e appello agli oppressi. Grillo stregò l'ambasciatore americano, è un interlocutore politico credibile, lo trovate sulla stampa. Grillo, che tra l'altro è stato intervistato ieri anche dal Wall Street Journal, che titola: un partito guidato da un comico continua a salire nel gradimento della popolazione. Sul Sole 24 Ore trovate un elemento alle quali forse i partiti dovrebbero dare una risposta. È vero che qualcosa hanno detto, cioè pagare i debiti delle imprese tramite l'emissione di titoli pubblici, ma guardate che il dato che viene presentato oggi al Sole 24 Ore sul nodo dei crediti, lo Stato che è cattivo pagatore, e questa non è una novità, ora ha una cifra: debiti della pubblica amministrazione fermi a 70 miliardi, sono circa tra i 69 e i 70 i miliardi di euro che le aziende devono avere dallo Stato, e lo Stato, in quanto cattivo pagatore, non paga. Anche perché, scrive Carmine Fotina, pagina 10 del Sole, è stata implementata questa iniziativa di una piattaforma elettronica per la certificazione, che è il primo punto da parte delle imprese, cioè certificarsi da parte della Ragioneria dello Stato per ottenere poi questi crediti. Ma in realtà solo poche centinaia, solo 289 aziende per il momento hanno avuto accesso a questa piattaforma. 289, pensate che i fornitori della pubblica amministrazione sono 150.000, 289 su 150.000. Risultato: per ora si sono date solo 467 istanze presentate per 45 milioni di debiti, 45 milioni, ma i debiti sono 70 miliardi. Per carità, io non voglio collegare le due cose, ma oggi troverete un episodio di cronaca impressionante. Niente Credito spara al direttore della banca, succede a Padova, dove un commerciante era in difficoltà economica, in gravi difficoltà economiche, e cosa ha fatto? Ha fatto questa pazzia, è andato in banca e ha sparato al funzionario che gli ha negato i soldi. Trovate l'articolo sulla stampa, lo trovate su tutti i giornali, anche su Libero. Non gli fa credito, spara al direttore di banca, gravissimo il funzionario ferito dal titolare di un caseificio. E tra l'altro il governatore del Veneto Luca Zaia dice: un gesto non giustificabile da condannare, ma un segno di disperazione, di una guerra tra poveri. Difendo certo lo sportellista come chi lavora a Equitalia, ma è un segnale che mi fa molto pensare, perché è battaglia del popolo nel popolo. Beh, certamente è una notizia davvero clamorosa. Chiudo ricordando che trovate in edicola il Corriere della Sera, ma il comitato di redazione, cioè la rappresentanza sindacale, dice: lo trovate per senso di responsabilità per quello che è successo con le notizie del Papa, perché RCS è in una situazione, almeno secondo l'amministratore delegato, di tagli poderosi. È stato annunciato, per quel che riguarda RCS, la vendita o la chiusura di 10 periodici, 800 esuberi, 640 dei quali in Italia, il resto in Spagna. Trovate sia sull'Unità, Lacrime e Sangue in RCS, 800 esuberi, 10 testate KO, sia sul Sole, RCS, 4 banche per l'aumento, e anche ovviamente sul Corriere, piano con 800 esuberi, questa notizia che riguarda anche uno dei maggiori quotidiani in Italia. Ci fermiamo, Giornale Radio.